Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Sono dei veri e propri super lieviti quelli che i ricercatori del Great Lakes Bioenergy Research Center di Madison in Wisconsin, Università del Wisconsin, hanno creato incrociando fino a 6 differenti specie di lievito appartenenti al genere dei saccaromiceti. Per intendersi, a questo genere appartiene anche il lievito che utilizziamo abitualmente per fare il pane, per fare il vino, per fare la birra. Obiettivo di questa ricerca dell'Università del Wisconsin è naturalmente riuscire a selezionare lieviti con proprietà particolari che possono andare dalla resistenza al freddo fino alla capacità di metabolizzare, quindi trasformare in alcol o qualcosa del genere, zuccheri che normalmente questi lieviti fanno fatica a digerire. Ne parliamo con la professoressa Concetta Compagno, professoressa di biotecnologia delle fermentazioni all'Università degli Studi di Milano. Buonasera, benvenuta. Buonasera. Allora, senta, le chiedo la metodologia usata da questi ricercatori per produrre, per creare appunto questi lieviti ibridi, questi super lieviti, chiamiamoli così. Sì, dunque in questa ricerca gli autori appunto hanno messo a punto fondamentalmente un protocollo che permette di incrociare lieviti appartenenti a specie diverse, una delle quali appunto, come lei diceva, Saccharomyces cerevisiae, per ottenere appunto un super ibrido che riunisse i genomi presenti nelle 6 diverse specie in un unico organismo. Il protocollo è fondamentale per rimuovere appunto le barriere di specie che esistono normalmente e che rendono raro l'evento di ibridazione, evento che però in natura avviene e che è uno dei meccanismi principali appunto con cui l'evoluzione dà origine alla biodiversità. Quello che succede è proprio che i genomi delle varie specie si sommano all'interno dello stesso individuo. È corretto? Esatto, si sommano e alla fine di questo processo di ibridazione gli autori hanno poi selezionato il super ibrido attraverso la capacità di crescere utilizzando uno zucchero inusuale per il lievito, che è appunto l'oxilosio, che è presente in molti materiali lignocellulosici, e la capacità di crescere a bassa temperatura. Quando le dice selezione, intende proprio il fatto che, mi dica se è corretto, insomma, io prendo questi lieviti, li metto su un terreno di coltura dove c'è questo oxilosio e dove fa freddino rispetto al normale, e quelli che si riproducono sono i lieviti che interessano a me, bene o male. Quelli che sono in grado di crescere e di crescere bene, con una buona performance, sono quelli che poi appunto vengono selezionati, quindi prescelti per un loro poi eventuale utilizzo a livello industriale, si spera. Certo. Quindi insomma, al di là di questo escamotage che evidentemente i ricercatori hanno messo in piedi per convincere più facilmente lieviti di specie diverse a ibridarsi, assistiamo a un meccanismo di appunto ibridazione e selezione che potremmo trovare tale quale in natura. Sì, perché appunto in natura questo avviene ed è, come dicevo, appunto alla base della formazione di nuove specie, anche che poi ci pensa la natura a selezionare a seconda delle condizioni ambientali in cui questi organismi si trovano a vivere. Ci sono già esempi di lieviti ibridi che hanno già fatto questo percorso e che vengono utilizzati? Certo, esiste un lievito della birra, il lievito che viene utilizzato a livello industriale per produrre la birra, che è il Saccharomyces casbergensis, che è stato isolato nei laboratori della Carlsberg per la prima volta, ma che solo di recente, grazie a analisi genomiche, è stato appunto reso possibile capire che si tratta di un ibrido che si era originato ovviamente in natura a partire proprio da Saccharomyces cerevisiae con un'altra specie che non è stata identificata, che non è stato possibile possibile identificare, ma è che poi, appunto, una volta che è stato selezionato, viene ancora utilizzato dai laboratori della Carlsberg in tutto il mondo per produrre la birra. Come sempre la natura arriva prima di noi. Senta, così le chiedo un commento. Intanto questi ricercatori nello specifico stanno, se ho ben capito, cercando di selezionare degli lieviti che potrebbero essere utili nella produzione di isobutanolo, che è un biocarburante fondamentalmente, no? Esatto. Sì, perché appunto uno delle applicazioni, diciamo, più attuali dei lieviti è proprio quella della produzione di biocarburanti, non solo bioetanolo appunto, ma anche altri carburanti come l'isobutanolo, come anche per esempio lipidi dai quali ottenere eventualmente biodiesel. Sono parecchie le molecole che appunto i lieviti possono essere già in grado di produrre, ma possono appunto essere indotti a produrre grazie appunto alla loro manipolazione. Anche lei ha un'esperienza analoga, insomma, di lavoro sugli lieviti. Lei si occupa appunto di fermentazione, che è quel processo con cui i lieviti trasformano gli zuccheri in alcol o in altri composti. Se ne è occupata, dicevo, anche lei all'interno di un progetto in collaborazione con Eni. Sì, infatti io ho collaborato con Eni in un progetto sulla produzione di oli per ottenimento poi di biodiesel a partire da una specifica categoria di lieviti che sono i cosiddetti lieviti oleaginosi, proprio perché sono delle specie di lievito in grado di accumulare grosse quantità di lipidi, un po' come fanno appunto alcune alghe che vengono infatti già utilizzate per questo scopo. Grazie professoressa Compagno. Grazie a lei. Ci fermiamo qui, cari ascoltatori, ci diamo appuntamento a domani. Buona serata a tutti voi.